24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Terza parte di 24 Mattino alle 8:19 minuti e 54 secondi di questo martedì 11 febbraio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, cari ascoltatori e ascoltatrici. Stamattina Simone Spezia c'ha una cravatta che è una bella? Meraviglia. Bella? Bella, bella, molto bella, chic. Che in cravatta allegra. È raro vederlo. Allegra, è allegra, raro vederlo, chissà allegra. Dove vai stamattina. Fior, no, da nessuna parte, in realtà sto qua. Ogni tanto la metto per trovare un po' di dignità. Quando mi alzo alle 4 del mattino, no? Alle 4 e mezza, allora mi cravatta. Metto la cravatta. Mi pare per un bel darmi, gesto. Per darmi un minimo di dignità. Allora, vabbè, insomma, Maria. Questi 634 di Sanremo, questi che si portano i parenti a Sanremo, guarda che fantastico. Ma per carità, per carità, io capisco, è un bel evento, dice ci vado io per lavoro, vieni anche te, ma 600 sono tanti. 600 sono tanti. Sono tanti, che chiami. Vedremo un po', vedremo che cosa diranno i revisori dei conti della Rai, poi bisogna vedere se è tutta poi una battaglia politica interna, che cosa è effettivamente, chi sono questi 600, perché sappiamo... Però come sai che cosa penso? Là, eh? Che sarà una questioncina che ci magari occuperà per qualche giorno, perché sì. Queste cose cominciano e vanno avanti un ce po'. La porteremo dietro. Ce la porteremo. Usciranno i nomi. Sono già usciti. Sono già usciti. Vabbè. Allora, veniamo alle cose importanti, quelle veramente importanti. Tra poco andremo a parlare anche di politica, lo faremo con Teresa Bellanova, che oltre ad essere ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche la capodelegazione di Italia Viva al governo, insomma, e le tensioni le conosciamo, ne abbiamo parlato ampiamente e ci arriveremo, e faremo anche qualche domanda a Teresa Bellanova su come mai sia tutto o quasi tutto fermo, con i dati sulla produzione industriale che ci troviamo, che sono tutt'altro che buoni. E di economia continuiamo a parlare adesso, cara Maria, perché con Matteo Lunelli, che è presidente di Alta Gamma, della Fondazione Alta Gamma, che raccoglie, diciamo, le grandi eccellenze del Made in Italy. Lunelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Vogliamo parlare un po' degli effetti del coronavirus e dei possibili effetti del coronavirus. Maria, prego. Intanto, buongiorno Matteo Lunelli, che tra l'altro è un imprenditore vinicolo di grande rilevanza. Io le chiederei di darci un quadro in generale. Previsioni è difficile farle, però in ballo si dice ci sono 13 miliardi di esportazioni e 31 miliardi di beni importati. A oggi, con la situazione attuale, che tutti speriamo migliorerà, ma potrebbe anche non migliorare, quali effetti prevedete sui settori di cui lei si occupa, da quello vinicolo a quello di cui pure è informato, come il lusso, le griff di moda? Quali sono gli effetti? Cioè, questi 13 miliardi di esportazioni che si dice sono in ballo, di quanto potrebbero diminuire? Beh, allora, partiamo anzitutto da un presupposto, cioè che i cinesi sono stati negli ultimi anni i protagonisti della crescita dei consumi mondiali del lusso. Quindi il consumatore cinese, do due numeri, sono il 35% delle vendite di beni di lusso, in questo momento, contando sia i consumi fatti in Cina che fuori dalla Cina, e nel 2025, secondo una ricerca di Bain che abbiamo fatto con Fondazione Alta Gamma, rappresenteranno addirittura il 50% del consumo dei beni di lusso. Quindi l'impatto di un problema nel mercato cinese e sui cinesi in viaggio è un impatto che sul settore del lusso è estremamente significativo. Quindi questo è un presupposto. Pensate che appunto parliamo anche i turisti cinesi, sono quasi 200 milioni di persone che viaggiano nel mondo e consumano e acquistano nelle vie del lusso. A Monte Napoleone, ad esempio, si pensa che circa il 20% dei clienti siano cinesi in termini di spesa. Quindi allora l'impatto di questa epidemia, che prima di tutto è una tragedia, però l'impatto economico di questa epidemia sarà sicuramente molto significativa. I primi dati che stanno uscendo parlano di circa un 15% di impatto sul fatturato nel primo quarto dell'azienda della moda in particolare. Quindi questi sono i primi dati, anche perché ovviamente in Cina c'è stato invece un calo drastico delle vendite con la chiusura di negozi, e soprattutto anche nelle città della moda e nei negozi del lusso di tutto il mondo ovviamente si vedono mancare questi consumatori cinesi. In più è evidente che questo avrà un effetto su un'economia che, dicevi, come accennava prima Simone, è comunque in un momento anche di leggera debolezza, quindi potrebbe avere un impatto. Parlando questo del settore del lusso in generale, ecco, per fortuna, pensando al settore vinicolo, la debolezza dell'Italia, che non è mai stata forte sul mercato cinese, in questo caso ci salva un po', perché il settore, ad esempio, del vino in Cina, del vino italiano in Cina, è abbastanza debole, cioè noi siamo molto meno presenti in Cina rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe, perché rispetto al totale delle esportazioni delle importazioni di vino in Cina, l'Italia conta circa il 5% contro una Francia che supera il 40%. Quindi diciamo che per quanto riguarda il settore del vino l'impatto non sarà molto significativo, nel mondo del lusso è probabilmente la moda quella che avrà un impatto maggiore. E anche l'arredo forse, Lunelli? Sì, assolutamente. Tra l'altro il nostro settore del design stava crescendo molto bene, il Salone del Mobile è andato in Cina e l'ultima edizione ad esempio è stato un successo enorme, quindi sicuramente anche il settore dell'arredo avrà un impatto. In generale, come dicevo, i cinesi stanno diventando i protagonisti del consumo dei vini di lusso, e oltretutto ovviamente questa epidemia avrà un effetto su tutta l'Asia, che è altrettanto un mercato molto importante. L'effetto di lungo periodo, ovviamente noi ci aspettiamo che sia comunque, ci aspettiamo che l'effetto sia temporaneo, e tutto dipenderà da quanto questa emergenza rientrerà. Sì. È difficile fare previsioni. I mercati in questo momento ovviamente hanno preso, ci hanno detto che ci sarà un rallentamento, però l'attuale reazione del mercato sembra un po' dire che comunque si tratta di un effetto temporaneo, e noi tutti ci auguriamo che le cose ritornino nella normalità il più presto possibile, soprattutto dal punto di vista umanitario. Sì, citavamo questa mattina in rassegna stampa questa ricerca appena uscita dal Centro Studi di Intesa San Paolo, che dice esattamente questo, cioè la previsione è per appunto un impatto temporaneo. C'è forse il rischio di un effetto trascinamento psicologico di questa vicenda, ossia a prescindere dal momento nel quale si chiuderà la questione del coronavirus, non è facile prevedere, viste le dimensioni delle misure prese dagli stessi cinesi, che cosa faranno i consumatori cinesi e come si muoveranno i governi, Lunelli? Allora, le previsioni sono sempre difficili. Allora, in passato da queste epidemie, da queste situazioni comunque si è usciti con una certa velocità, cioè i consumi abbiamo visto in passato che poi tendono a riprendere con una certa velocità. Però, ripeto, dipenderà anche molto dall'evoluzione di questa malattia. Si pensa che il picco dovrebbe arrivare appunto nel mese di febbraio, e questo auspichiamo tutti che arrivi nel più breve tempo possibile. È ovvio che da un punto di vista poi invece medico sono molto meno preparato, e su questo vedo che ci sono delle previsioni ma non ci sono certezze. È evidente che poi il consumatore, come dicevi tu prima, si muove anche sulle aspettative, e questo un pochettino ha un effetto, cioè se veniamo da un periodo di crescita economica significativa a livello mondiale, c'erano dei segnali di rallentamento, e quindi questa problematica potrebbe avere un effetto, si innesta diciamo su una situazione economica che è delicata. D'altro canto, ripeto, l'esperienza passata ci dice che l'effetto era temporaneo. Si fanno tanti paragoni con quello che era successo con la SARS. È vero che bisogna fare una distinzione forte. Ai tempi della SARS, che non era così lontana, però il mercato era molto diverso, cioè i consumatori cinesi e asiatici contavano molto meno, ad esempio in particolare per il mercato dei beni di lusso. C'è stata una crescita negli ultimi anni spropositata dei consumi dei cinesi, e quindi l'effetto, almeno in termini di effetto economico, sicuramente questa epidemia avrà un effetto più importante rispetto a quello della SARS. C'è un effetto che riguarda soprattutto aziende che forse non afferiscono specificatamente al lusso, no? E che però può riguardare anche le aziende del lusso, ed è quello delle forniture, insomma, dei cosiddetti beni intermedi, Lunelli. Ossia il fatto che probabilmente in vista del Capodanno cinese molte aziende hanno riempito i magazzini con i pezzi che gli servivano per realizzare i prodotti finali, prima, no? Con un po' di anticipo, però a un certo punto queste forniture, questi magazzini si svuoteranno, no? Si esauriranno, e là si è fatto un'idea per quanto riguarda ovviamente nello specifico i settori ai quali fate riferimento come alta gamma. Anche solo alle lampade LED, sì, per esempio, sono prodotte tantissimo in Cina. Lunelli. Ma sicuramente ci sarà un effetto molto di grandi problemi sulla supply chain in generale. Questo non lo vivo come imprenditore personalmente, perché evidentemente su un prodotto come il Ferrari, come un vino che si fa in Italia, non avrà un impatto. Certamente a livello di settore, cioè a livello di supply chain, ci saranno delle problematiche, perché evidentemente poi, non potendosi muovere le persone, essendo bloccate alcune parti della supply chain, evidentemente il meccanismo poi si inceppa, e sono tutte esperienze abbastanza nuove e abbastanza difficili. Anche se adesso stanno riaprendo le fabbriche, o almeno così è stato comunicato ieri, bisognerà vedere se riapriranno, quante ne riapriranno in Cina. Senta, in questo senso forse anche il fatto che sia un'economia così regolata e così programmata forse gli aiuterà anche a ripartire, a riprendere in mano il meccanismo, perché ripeto, evidentemente la supply chain si blocca e a farla ripartire è molto complesso. Questo cigno nero, perché è un cigno nero, non ce l'aspettavamo ed è arrivato, il coronavirus, si immagina che avrà appunto un impatto anche sul nostro PIL, perché parlando della produzione alta di gamma, della cui fondazione lei è presidente, sappiamo che rappresenta il 6,85 punti percentuali di PIL. Proprio sul Sole 24 Ore il ministro degli esteri Di Maio annuncia provvedimenti in sostegno dell'impresa. Io le chiedo, quanto verrà scaricato sul coronavirus, per dire tutta colpa del coronavirus se il PIL non cresce e se la produttività non sale, e quanto invece è legato a problemi strutturali della nostra economia? Glielo chiedo con sincerità, mi risponda con sincerità. Allora, con sincerità, facendo una premessa, che il settore, parlando di quello che è il settore dell'alto di gamma, comunque era un settore di salute che stava andando molto bene, e quindi sicuramente l'effetto, se ci sarà un rallentamento, sarà strettamente legato al coronavirus. Più in generale, parlando dell'economia italiana, è evidente che c'era già in dicembre, i dati sulla produzione industriale in calo danno un segnale che abbiamo dei problemi che forse andavano al di là magari anche del coronavirus, e quindi siamo un'economia che negli ultimi anni, per carità, stava iniziando a riprendere, però ha delle problematiche che vanno un po' al di là del coronavirus, che sono legate al fatto che dobbiamo proprio intervenire da un punto di vista strutturale sulla nostra economia. È evidente che su un paese come il nostro, però, dove le esportazioni e le esportazioni magari dell'alto di gamma in particolare sono molto importanti, dove il turismo è un settore significativo dell'economia, insomma, su un paese come il nostro questa epidemia avrà un impatto e sicuramente non aiuterà. Ripeto, però io sono molto ottimista, ad esempio, sulle prospettive di questi due settori, cioè sia l'alto di gamma in termini di esportazione che il turismo. In Italia penso che abbiano delle prospettive straordinarie, quindi da un punto di vista economico continuo a pensare che l'effetto sarà assolutamente temporaneo. Grazie a Matteo Lunelli, presidente della Fondazione Alta Gamma. Mi scrive un ascoltatore: dopo ogni guerra l'uomo si lascia andare per lo scampato pericolo e spenderà, dice. Insomma, quindi speriamo che nel caso del coronavirus, che non è una guerra, sia effettivamente così. Grazie Matteo Lunelli, presidente di Fondazione Alta Gamma. E noi ci fermiamo, c'è una pausa. Oh, se volete vedere la cravatta, l'ho data a Maria Latella, siamo in diretta anche su Facebook, naturalmente. Bellissima, come sempre. 349-238-6666 per media di gamma. 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, ovviamente. L'800-24-00-24 per intervenire in diretta. Tra un attimo. Eccoci di nuovo. Un ascoltatore scrive: il virus mette la pietra tombale sulla globalizzazione. Non credo proprio, anche perché mica c'è solo la Cina, c'è l'India. c'è tutto il sud-est asiatico, ma poi figuriamoci, c'è ormai l'Africa, tra le altre cose tenere presente. Ormai il pianeta è talmente interconnesso che fare ragionamenti di questo tipo è, insomma, lascia il tempo che trova, tutto sommato, insomma, schierarsi ancora contro la globalizzazione. Altri dicono forse questo potrà spingere alcuni imprenditori che in passato hanno delocalizzato a tornare indietro. In realtà, devo dire la verità, questo è un processo che in parte è già in corso e prescinde dal coronavirus. Sì. Dipende dalla qualità e anche dal fatto che pure in Cina stanno alzando i salari, per non parlare del fatto che per esempio Trump negli Stati Uniti li ha fatti tornare, certo, dicendo o tornate o se no vi nel momento nel quale metti i dazi. Senti Maria, tra un attimo parleremo con Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole. È calda. Veniamo un po' a un po' di politica, posto che è tutto fermo sul resto. Ma è tutto fermo proprio perché non sanno se il governo durerà, se, come sembra, si troverà alla fine un accordo, nel senso che per esempio Italia Viva voterà la fiducia al governo e poi presenterà una mozione di sfiducia, anche se la cosa sembra appunto molto in contraddizione. Tutto è fermo perché non è nato un governo. Quando è nato questo governo, a fine agosto, è nato su principi ai quali una settimana prima nessuno avrebbe potuto credere. E quindi è molto faticoso, benché Conte sia persona, come dire, mediatrice, puoi mediare fino a un certo punto. Ma tu ti ricordi, perché te lo ricorderai senz'altro, quando dopo mesi di tira e molla, a un certo punto Mastella fece cadere il governo. Già. E prima di lui l'aveva fatto cadere sempre un altro governo Prodi, Bertinotti. Ci sono delle meccaniche, a un certo punto si mettono in moto e un cupio dissolvi, muoia Sansone e tutti i filistei. Poi bisogna vedere se Sansone vedremo. Siete Sansone, Teresa Bellanova, buongiorno. Buongiorno. Noi siamo una forza politica giovane che ha valori profondi e su questo diciamo con molta franchezza: non c'è baratto tra la tenuta del governo e la giustizia giusta, perché la giustizia giusta è un punto fondamentale e qualificante della nostra democrazia. Quindi siete disposti a far cadere il governo, Bellanova? Quindi siete disposti a far cadere il governo su questa cosa? Noi siamo disposti a fare fino in fondo la nostra parte per garantire il diritto dei cittadini, che significa il diritto degli imputati ad avere una fine del processo e il diritto della parte lesa ad avere giustizia rispetto ai procedimenti che sono in corso. Senta, Teresa, su questo è il presidente Conte che deve assumere la responsabilità di decidere se si creano le condizioni per andare avanti o se sfiducia la maggioranza. Se una maggioranza è composta da quattro forze politiche, sono quattro forze politiche che bisogna portare a sintesi. Se una forza politica viene messa di fronte alla condizione di dire gli altri tre si sono già messi d'accordo, gli altri due si sono già messi d'accordo, quell'altra parte si è messa d'accordo, allora non si produce una sintesi, si pensa di imporre una soluzione. Ministro, senta, lei è sicuramente in questo momento l'immagine più combattiva, la front runner, diciamolo pure, di Italia Viva. Il suo consenso tra i ministri, abbiamo visto anche le recenti sondaggi, molto alto, è sicuramente una figura molto popolare, però è anche una donna che ha fatto tante battaglie, è una mediatrice perché appunto ha fatto battaglie anche sindacali. Allora le chiedo, abbiamo capito perfettamente quello che lei dice, se la maggioranza è composta da quattro partiti non possono fare, non possono prendere le decisioni in tre, però proprio perché lei è una mediatrice e conosce bene anche i problemi economici che il paese affronta. Ieri sono arrivati due dati negativi sull'economia, no? L'Istat ha segnalato che la produzione industriale è tornata a scendere dopo 5 anni, l'Ufficio parlamentare di bilancio prevede che il PIL quest'anno crescerà al di sotto di quanto era stato stimato a ottobre, 0,2% invece che 0,5%. Le chiedo, ma proprio perché è una donna che sente la responsabilità della politica e lo fa da tanti anni, non pensa che forse è arrivato il momento di mettere da parte le battaglie anche pure giuste di partito e lavorare tutti insieme per far ripartire l'economia, che è la cosa principale, è la prima cosa in questo paese da rimettere a posto? Proprio per questo ieri ho detto al presidente Conte: è possibile che di fronte ai dati che dicono che l'Italia non si è fermata, l'Italia sta tornando indietro, sta tornando ai periodi pre-crisi, l'Italia con il 4,3 in meno su base annua di export, del 13,9 per quanto riguarda l'auto, ha bisogno di una classe dirigente in grado di concentrarsi e di ragionare sul sistema paese. È possibile che in una situazione come questa la maggioranza, il presidente Conte, non abbia la volontà di dire blocchiamo una discussione sulla questione della prescrizione, prendiamo tempo per far lavorare le forze politiche a raggiungere un'intesa e nel frattempo però potreste anche essere voi a dire potreste anche essere voi a dire abbiamo, come dire, alzato molto i toni, ci fermiamo, perché no, anche dire che chiedete le dimissioni del ministro Bonafede, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, è come se chiedessero le dimissioni sue, ministro, che è capo delegazione per Italia Viva, cioè ne va di mezzo il governo, è una mossa molto provocatoria. Io non arriverò mai, per quanto io stia svolgendo la mia funzione con il massimo di impegno e di passione civile, non arriverò mai a pensare che la mia funzione vale la messa in discussione dei diritti delle persone, di uomini e donne che devono vivere in un paese dove un processo ha un inizio e ha una fine, dove chi è leso in un procedimento deve vedere riconosciuto il suo diritto. Ma è quello che dice proprio, ma è quello che dice la stessa cosa che dice Conte, la stessa cosa che dice il responsabile della giustizia Verini. Dovrebbe ascoltare gli avvocati, dovrebbe ascoltare i magistrati che in questo caso all'unisono dicono la stessa cosa. Questo lodo che è stato messo in piedi è incostituzionale perché nega il diritto dei cittadini ad avere tempi certi nella giustizia. Allora si blocchi quella discussione se non si vuole mettere in discussione la maggioranza, perché noi all'idea del baratto non ci stiamo. Non ci state. Bellanova, abbiamo una pausa breve, raccogliamo le idee, sottolineando agli ascoltatori che mi sembra che siamo in un cul-de-sac e ci sono sia il Movimento 5 Stelle che Italia Viva, nel senso che vi siete messi da due parti della barricata e la sintesi oggettivamente mi sembra che non si riesca a trovare. Comunque, pausa e poi ne parliamo. 800 24 0024 per intervenire in diretta. Mattino. Cioè, Bellanova, il punto è che mi sembra che non se ne esca, perché la sua posizione, la vostra posizione, lei ce l'ha espressa abbastanza nitidamente adesso. Dall'altra parte, per il Movimento 5 Stelle, questa questione della prescrizione è una battaglia identitaria sulla quale possono arretrare fino ad un certo punto. Cioè, lei comprende che non c'è sintesi possibile, penso, oltre quella che è stata approvata, tra l'altro, da tre partiti di maggioranza su quattro. Ho capito, ma qui non si tratta né di arretrare né di avanzare. Il punto è questo: se si vuole imporre a questa maggioranza di accettare quello che era stato fatto con il governo precedente, cioè con il governo Salvini Bonafede, non va bene. Se il Partito Democratico ha deciso di piegarsi a questo, non si può imporre ad Italia Viva di assecondare questa scelta. Mi perdoni, ministro, allora, ministro, già la riforma Bonafede. Mi scusi, no, mi faccia parlare. No, mi faccia parlare. Prego. Ministro, siamo due combattive e se no facciamo pugni e proprio come le dicevo non ne ho alcuna intenzione. No, il punto è, già la riforma Bonafede è stata molto svuotata. Già il ministro stesso ha accettato cose che tre mesi fa non avrebbe accettato, e in più, quando avete deciso di fare questo governo giallorosso, che è stato fortemente voluto da Matteo Renzi, lo sapevate che c'era la questione prescrizione in mezzo. Cioè, perché non avete posto subito, prima di fare il governo, la questione? Beh, perché chi ha trattato, diciamo, stando al governo, e noi siamo stati su quel impianto, ovviamente con la voglia di contribuire a migliorare le situazioni mano a mano che si va avanti. Noi non abbiamo messo in discussione la base sulla quale si è scelto di fare un governo in una situazione di emergenza. In questo caso quello che diciamo con molta franchezza e con molta chiarezza è: ci sono le condizioni per produrre una mediazione più avanzata. Quella che è stata prodotta non è soddisfacente, non solo perché lo diciamo noi, ma perché viene riconosciuto da tutte le parti, e siccome quando si riconoscono le competenze bisogna riconoscerle sempre, magistrati e avvocati dicono che quella proposta è una proposta che non solo non risolve i problemi, ma peggiora la situazione del nostro paese. Allora, si può prendere tempo? Lei diceva prima che siamo persone che hanno anche capacità di mediazione. La mediazione si produce in questo modo: si prende tempo e si ragiona cercando di mettere insieme le parti, non imponendo soluzioni. Quelli sono tavoli che non vanno avanti. Allora, il Presidente del Consiglio, anziché ragionare su un possibile decreto legge che non si capisce per quale ragione, su un possibile emendamento in un testo che non c'entra assolutamente nulla, come il milleproroghe, prendesse tempo, bloccasse. C'è il lodo Annibali, non vanno bene i 12 mesi proposti dal lodo Annibali, chiedessero di riformulare. Però di rinvio a rinvio questo paese muore. A questo proposito, qui si tratta di un rinvio che aiuta il paese ad avere una posizione più trasparente e più limpida e soprattutto a riconoscere il bene del sistema paese. Bellanova, a proposito di paese un po' fermo, lo dicevamo prima in trasmissione, sono passate ormai 2 settimane dalle regionali che dovevano essere il punto di svolta e ancora poco si vede. Ieri, prima riunione del tavolo per l'agenda 2023, il quale tavolo si è deciso poi di scomporlo in altri 5 sottotavoli. Ovviamente non è una falegnameria, è un tentativo di costruire un'agenda di governo, però mi pare, Bellanova, che le cose vadano un filino a rilento, se consente il sarcasmo. Io consento, ci mancherebbe altro. La ragione per la quale continuo ad insistere: noi di fronte a questi dati, che sono dati allarmanti, personalmente li considero molto allarmanti, dobbiamo avere chiarezza di che cosa si vuole fare. Oggi o si discute di sistema paese, di quale paese vuoi e di quali sono le priorità alle quali devi dare risposte, o giri intorno ai tavoli. Magari metteremo in piedi una scuola di falegnameria, ma non risultati concreti. Allora, qual è l'emergenza di questo paese? La crescita. Dove individui le risorse? Dove le recuperi le risorse? Italia Viva ha detto 120 miliardi di euro per il piano Italia Shock. Ne vogliamo parlare? Vogliamo far partire queste risorse? Io, nel mio piccolo, come Ministro dell'Agricoltura, 15 giorni fa, insieme ai dirigenti del mio Ministero, ho presentato il progetto che sblocca 500 milioni di euro per il 2020 su opere irrigue, sull'utilizzo corretto dell'acqua. Sono risorse che entro questo anno vanno spese. Questo lavoro si può fare in tutte le altre amministrazioni e ci si può attivare per trovare le risorse, perché guardi, il problema, come ho detto al Presidente Conte, non è quello di aprire i tavoli. Il problema è capire come li vuoi chiudere i tavoli. E allora, se apri i tavoli, individui le emergenze, ma individui anche le risorse. Senta, perché Ministro, altrimenti fai giri di valzer. L'Italia non si può permettere questo. Per noi le priorità sono chiare: la crescita, i giovani, il lavoro autonomo, la formazione. Perfetto. Questo noi siamo pronti a lavorare 24 ore al giorno, ma con cose concrete. E invece questa maggioranza continua ad avvitarsi sulla questione Ministro, della prescrizione. No, Ministro, ci sono tante questioni, mi pare, sulle quali continua ad avvitarsi la maggioranza e sulle quali appunto Italia Viva, pur facendo parte della maggioranza, dà segnali diversi. Persino sulle regionali. Lei è molto popolare, lo ricordo. Sembra di capire che si stia decidendo per Italia Viva una candidatura in Puglia in antitesi a quella che eventualmente verrebbe scelta dal Partito Democratico. Avete individuato un nome e sarà un ulteriore motivo di lite. Ne vale la pena? Guardi, questa è davvero una narrazione che non mi appartiene. Io glielo voglio dire con molta chiarezza e franchezza. Noi siamo una forza giovane, vogliamo essere in campo, saremo in campo nelle amministrative, nelle regioni saremo in campo dove siamo in condizione, staremo nelle liste civiche dove ci saranno le liste civiche che ci potranno vedere partecipi, sosterremo quei candidati presidenti che riteniamo, come abbiamo fatto con il presidente Bonaccini, dove abbiamo sostenuto la sua figura. Sì, ma in Puglia non sosterrete Emiliano, però. Adesso stiamo parlando della Puglia. In Puglia non sosterrete Emiliano ed è un motivo di ulteriore rottura col Partito Democratico. Non sosterremo Emiliano perché io voglio capire se il Partito Democratico pensa che quello di Emiliano è il governo che serve al Mezzogiorno. Il punto è che idea di Mezzogiorno hai e che classi dirigenti vuoi mettere in campo, perché in questo paese dove si discute sempre di uomini solo al comando quando riguardano gli altri, vogliamo parlare di un presidente di regione che ha sommato su di sé il ruolo di presidente di regione, di assessore alla sanità e di assessore all'agricoltura? In agricoltura in Puglia ci sono 142 milioni di euro che dovevano stare nella disponibilità delle imprese per poter rafforzare la competitività e creare lavoro, e stanno nella disponibilità della Regione Puglia. Il Partito Democratico è impegnato a fare la battaglia a Italia Viva perché si vuole uccidere in culla, o invece il Partito Democratico, dopo il risultato bellissimo dell'Emilia Romagna, pessimissimo della Calabria, si pone il problema se nel Mezzogiorno ci deve essere una classe dirigente riformista o ci devono essere invece gli agitatori di popolo, Bellanova, che come Emiliano però alla Bellanova, abbiamo 5 secondi di non risolvere i problemi. Abbiamo 5 secondi, ma lei si candida alla presidenza della Puglia o no? Il problema non è quello che farò io, il problema è quello che le forze politiche progressiste hanno come però, idea del Mezzogiorno. Però potrebbe, cioè se glielo chiedono ci sta. Se glielo chiedono ci sta. Ci sono ragazze che non si chiedono che cosa farà la Bellanova e che cosa farà Emiliano. Ci sono ragazzi e ragazzi che chiedono alla politica di presentare proposte e di essere. Ecco, allora mi faccio fare un'ultima domanda, Bellanova. Corrono varie ipotesi di governi sostitutivi di Conte con altre maggioranze. Pare che il presidente Mattarella non ci pensa nemmeno, ma lei un governo con una maggioranza che comprenda la Lega, no? Lo farebbe? Lei, solo sì o no? Guardi, io non solo non lo farei, ma questo nella sua saggezza e nella sua autorevolezza è solo, diciamo, se questo governo o altra maggioranza deve essere messa in campo nelle mani del Presidente della Repubblica. Grazie Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole, per essere stata con noi. Maria, ci vediamo domani alle 8:20. Con la cravatta, mi raccomando. Sì, ci provo. Con gli ascoltatori, con gli altri ascoltatori ci sentiamo alle 6:30 di domani mattina. Ciao. Ciao.